Giovedì 10 novembre del 2016, 87.9 la modulazione di frequenza, ci ascoltate qui e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Visionare il cinema su Radio Onda Rossa tutti i giovedì dalle 14 alle 15 e spesso e volentieri cominciamo subito dopo il giornale radio delle 13. Tutte le informazioni sulla trasmissione e sulla scaletta di oggi le trovate sul sito internet della radio, sempre sull'home page, colonna centrale trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook visionari e l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Floriana Pinto, curatrice della rassegna Female Touch, le donne pensano il cinema, al Blue Desk qui a Roma dall'11 novembre all'11 dicembre. Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie per l'invito. Allora, io sono curioso perché non so di cosa si tratta, credo anche che sia la prima edizione di questa rassegna al Blue Desk, giusto Floriana? Sì, esatto, abbiamo lanciato questa prima edizione, Female Touch, le donne pensano il cinema, riguarda 10 incontri con 10 professioniste appunto dell'audiovisivo, per ragionare su quello che è un po' come interviene lo sguardo creativo di una donna, no? Nell'opera. E abbiamo voluto per questa prima edizione appunto 10 incontri, 10 professioniste e 10 film. 10 film scelti da loro, quindi a cui loro hanno lavorato. Sì. Sono tutti incontri relativi a diversi settori di lavorazione del film? Sì, esatto. Okay. Questa è anche un po' la specificità, no? Abbiamo voluto coinvolgere mestieranze, anche se non è poi la parola esatta, professioniste che si occupano insomma dalla regia, la sceneggiatura, ci sono dei lavori che magari sono anche meno noti, come il fonico di presa diretta. Sì. O la direttrice di post-produzione, quindi l'idea è un po', nasce da un voler fare un incontro tra chi questi lavori li fa e il pubblico, quindi chi il cinema lo pensa e lo fa e chi poi lo guarderà in sala. Sì. Quindi analizzare un po' insieme sia in cosa consiste il loro lavoro, cosa c'è dietro all'ambito creativo per fare un film, e anche ragionare poi su altre cose, ad esempio appunto le donne, no? Le quote rosa tra virgolette, quello che poi è un mondo quasi tutto prettamente maschile, quindi sì, anche se sì. C'è o meno una difficoltà, un confronto. Sì, sì. Tra l'altro le curatrici siete due donne, tutte donne che compongono questa rassegna. Volevo chiederti come sono state, intanto come avete pensato alle vostre interlocutrici? Allora, diciamo, ci siamo mosse seguendo intanto anche dei fili un po' di persone che più o meno con cui avevamo dei contatti diretti, anche no, ci siamo proposte e loro, devo dire, hanno accettato di buon grado questo invito da subito, quindi questo ci ha fatto enormemente piacere, perché magari con persone con cui avevamo un rapporto da anni, che conosciamo bene il loro lavoro, e diciamo è stato un po' più semplice, per altri versi un po' più all'avventura, no? Come si dice, lanciarsi, aspettare che questa proposta venga colta, ma devo dire non abbiamo avuto problemi, perché ripeto, siamo contentissime che questo invito sia stato raccolto da subito. Sì, le curatrici sono io e la collega che è Daniela Ceselli, che è una sceneggiatrice e docente universitario. Senti Floriana, come sono strutturati gli incontri e che cadenza hanno? Allora, gli incontri partono da domani, quindi dall'11 di novembre all'11 di dicembre, tutti i venerdì e le domeniche. Okay. Con orari differenti, quindi il venerdì si inizia alle 20 con le proiezioni, quindi ci sarà sempre prima il film e poi l'incontro a seguire con l'ospite. E il venerdì alle 20 e la domenica alle 18, tutti i venerdì e le domeniche. Ok. Senti, parliamo anche un attimino, spieghiamo anche cos'è Blue Desk, che per molti è una novità. Come mai avete, sì, scelto questo spazio? Allora, Blue Desk è il Blue Desk Studio, ecco, è la nostra realtà dell'associazione culturale che abbiamo messo su, inaugurato nel 2013. È uno spazio dedicato al cinema, ma anche alla musica. Abbiamo aperto anche dei concerti e delle presentazioni. È uno spazio che ha 40 posti, che noi abbiamo rimesso su dalle ceneri di una sede di partito abbandonata da anni. Quindi è una piccola chicca riemersa nel quartiere, appunto siamo sull'Appia, di fronte al Maestoso, quindi c'è il grande e il piccolo cinema. E abbiamo voluto decentrare, sinceramente. Blue Desk ha realizzato in questi anni come associazione anche rassegne di grandi autori come Ken Loach e Philip Groening, però abbiamo ritenuto opportuno dedicare degli spazi più ampi, quindi la Casa del Cinema, la Sala Trevi. In questo caso abbiamo volutamente decentrare un po' da questi luoghi della cultura più importanti e riportarli un po', anche se siamo comunque in centro, ma in una situazione comunque, non dico periferica, ma che possa decentrare un po' l'attenzione. E devo dire, finora sta funzionando, ecco. Quindi Blue Desk Studio dal 2013 è inaugurato con tutti i documentari su Werner Herzog, ha proseguito con altre collaborazioni e per la prima volta ospita la prima edizione di Semmelweis, che noi vogliamo assolutamente ripetere anche il prossimo anno, vista insomma l'adesione sia di pubblico che già per domani, diciamo, sono tantissime prenotazioni, e anche appunto per le autrici donne. Questo per noi il riscontro è fondamentale. Bene. Senti, a questo punto ci dai tutti i riferimenti web per le informazioni? Sì, allora il sito e tutte le informazioni sono reperibili appunto su bluedesk.it, quindi lì si possono trovare gli appuntamenti, le schede dei film, tutto ciò che serve, ecco, sulla rassegna. C'è anche la pagina Facebook di Blue Desk, che insomma è libera e facilmente consultabile, e questo. Le informazioni qui. Floriana, allora ricordiamolo, la rassegna Female Touch, Le donne pensano il cinema, al Blue Desk qui a Roma dall'11 novembre all'11 dicembre, il venerdì e la domenica. Sì, esatto. Benissimo. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, crepi il lupo. Ciao Floriana. Ciao. Eccoci con Maged El Mahedi sul progetto documentario in crowdfunding Sinestesia Cairo 13. Maged, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a tutti l'ascoltatore, anche a te. Sì, dimmi. Allora, parliamo un po' di questo progetto, come nasce questo documentario, le cui riprese già sono state effettuate. Sì, siamo nella fase di definizione, praticamente montaggio del suono, perché mentre giravo a Piazza Tahrir era il microfono scollegato, quindi c'era tanto rumore, poi lacrimogene, coprifuoco, c'erano tante cose insieme. Non sono riuscito a controllare tutto, quindi certo, Cade tutto sul montaggio del suono, da sistemarlo bene, così. Praticamente è la seconda rivoluzione dopo il 25 gennaio 2011 e la rivolta contro la dittatura, diciamo, del Fratello Mussolmani, che stavano al governo all'epoca, 2013. Sì. E poi la faccenda viene vista da un emigrato egiziano che vive in Italia, torna in Egitto per fare una ripresa su Sfinge e lanciare il turismo culturale. Però la faccenda è andata diversamente, visto che ci sono dei protestanti che protestano contro il governo dei Morsi, e poi è scoppiata un'altra rivoluzione, comunque, diciamo la seconda rivoluzione. Ecco, ci dici un po' i passaggi, quali sono stati tra la prima e la seconda? Primo film o il secondo film? No, di quello che è successo non solo a Piazza Tahrir, insomma, ma in Egitto in generale. È in Egitto in generale, sì, è stato a Piazza Tahrir, un'altra piazza dove si radunavano tutti i seguaci del presidente Morsi, dei fratelli Mussolmani. e quindi ho fatto alcune riprese di tutte le parti, meno di quella dei Fratelli Musulmani comunque, perché era una zona di scontro violenti comunque, mm-hmm, di tutte le parti. E poi Sinestesia è un titolo venuto nel mio sentimento nella piazza. Nella piazza ho avuto proprio i cinque sensi miei, sono entrati, sono messi insieme, cioè hanno provocato dei ricordi proprio molto lontano da infanzia sull'Egitto, e la speranza di avere un Egitto stabile, un Egitto sanpiedi, sviluppato, così, però le cose non è andata ben precisa comunque. Mm-hmm. Ecco, com'è la situazione oggi in Egitto? Vabbè, io sono da 3 anni proprio, da in 3 Italia. Anni sono fuori dall'Egitto, quindi sento quelle che sento al giornale, proprio o leggono al giornale o al TV o alla social media. È una situazione precaria comunque, non sappiamo esattamente come andrà a finire. Mm-hmm. Ma su tutto non so esattamente come andrà a finire le cose al tempo del nuovo presidente egiziano, quindi oltre a queste cose, faccenda di Giulio Regeni, altri dispersi, altri giovani ancora sono sotto processi, e la situazione non è ben chiaro comunque. Mm-hmm. Senti, sei in contatto anche con altri egiziani che sono partiti? No, altri egiziani no, cioè i vecchi miei amici è proprio dalla mia generazione, solo quelle che ho un contatto con loro. Sì. L'altri ribelli, rivoluzionari, proprio non ho contatto così, tipo Facebook, ma un contatto diretto non ce l'ho proprio. Mm-hmm. Non ce l'ho. Mm-hmm. Scusa se tu mi hai chiamato mentre sto facendo il montaggio, quindi c'è un po' la testa strapiena, però sì, volevo darti soltanto l'approccio, in che punto siamo, così. Io spero di finire questo film dopo 3 anni, proprio a finire il montaggio era una difficoltà enorme, e sì, tuttora, tranne crowdfunding che abbiamo lanciato 3-4 giorni fa, speriamo che avremo qualche soldino per pagare il minimo delle spese necessarie, sì, per, sì, far finire il film. Sì. Senti, Maged, sì, il documentario poi come uscirà? Dove lo farai girare? Vabbè, per comunque regista indipendente è l'unico modo che fa a piazzarlo proprio da un festival all'altro, fino a che trovo distributori o distribuzioni, che è una cosa non è facile per niente, soprattutto in Italia. Sì, sì, sì, sì, sì. Però ognuno fa le sue cose, poi il resto vedremo comunque. Mm-hmm. Ha avuto un premio nel primo film a Torino 3 anni fa, quindi questo sembra la seconda puntata del primo film, sì, quindi è un quadro quasi completo, parte dal 2012 finora. Sì. Allora, ricordiamolo, Maged, la campagna di crowdfunding, c'è ancora un mese a disposizione su Produzioni dal Basso, basta cercare Sinestesia Cairo 13, giusto? Sì, sì, però ho passato 3 giorni, quindi mancano 27. 27 giorni. 27 giorni, ogni giorno conta comunque, che speriamo che arrivi, che ci arriva da un buon È un buon risultato. Cioè, un buon risultato, sì. Esatto. Bene, io tra l'altro sia sulla pagina del sito internet della radio che sulla pagina Facebook ho messo anche il link per andare direttamente alla pagina di Produzioni dal Basso, quindi chi volesse è indirizzato bene. Maged, allora un abbraccio, buon lavoro, visto che sei in fase di montaggio del sonoro, ci sentiamo presto magari per la realizzazione completa del documentario. Speriamo presto comunque. È un'uscita. Grazie, grazie anche a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Un abbraccio a te, ciao Maged. Un abbraccio, grazie. Ciao. Maged El Mahedi sul progetto documentario in crowdfunding Sinestesia Cairo 13. Adele Dell'Erario sul progetto Nuovo Cinema. Adele, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti e ciao a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito. Allora, mi era arrivata questa comunicazione email su questo progetto Nuovo Cinema. Ho detto andiamo a sentire di cosa si tratta, allora raccontacelo un po' tu. E provo a raccontarvelo, non è molto complicata, però sicuramente ecco, ci sono diversi passaggi che possono anticipare una spiegazione un po' più complessa. E io con i miei amici, colleghi e soci, parlo di Fabio Meloni e Domenico Vitucci, abbiamo avuto un po' un'esperienza abbastanza importante sul cinema indipendente a Roma e negli ultimi mesi in qualche modo ci siamo resi conto che c'era un grande ritardo in questa città. E in realtà è una consapevolezza anche degli anni precedenti, non è una cosa che è sbucata adesso, comunque che abbiamo scoperto adesso, però abbiamo fatto una riflessione diciamo più particolarizzata, abbiamo iniziato e avviato una ricerca un po' più specifica negli ultimi mesi, perché in seguito alla chiusura del Cinemacra, che era un po' il punto di riferimento per il cinema indipendente a Roma, ci siamo chiesti se poi realmente bastasse un cinema a Roma, una sola sala cinematografica, un solo spazio che dedicasse così tanto tempo, tanta programmazione al cinema indipendente. Chiaramente la risposta è stata no, perché la città è grande, ma soprattutto c'è una grandissima realtà che lavora attorno al cinema indipendente, che non ha casa in questo momento. Quindi ci sono grandi sforzi di cineclub, altri spazi, anche alcuni cinema che a volte aprono appunto le loro porte al cinema indipendente, però sono sempre molto risicati questi spazi. E partendo da questa considerazione abbiamo detto muoviamoci affinché possa essere fatto un lavoro un po' più profondo, più complesso, che non riguardasse chiaramente soltanto l'apertura delle sale cinematografiche, ma un po' tutta la promozione cinematografica e tutto quello che gira attorno al cinema d'autore, al cinema indipendente, italiano, romano, ma non solo. E lì ci siamo detti proviamo in qualche modo anche a chiedere alla Commissione Cultura, che chiaramente lancia anche i segnali, diciamo le direttive politiche in questo senso e le varie direttive che poi vengono a essere seguite da tutte le amministrazioni, a chiedere appunto alla Commissione Cultura un incontro per parlare, perché ci dia spazio proprio per proporre le nostre cose, per dire quali sono i nostri disagi, quali sono i disagi del cinema indipendente, di tutta la filiera un po' del cinema indipendente, quindi dalla produzione alla distribuzione all'esercizio, per arrivare agli attori e ai protagonisti anche del cinema indipendente, quindi gli autori, le maestranze, i tecnici e via dicendo. E abbiamo avuto la possibilità di essere accolti e di avere questo momento di confronto con la Commissione Cultura di Roma Capitale lo scorso 6 ottobre, sì. E noi lì abbiamo avanzato una proposta molto concreta, abbiamo detto creiamo un tavolo tecnico perché si lavori su delle cose. Poi chiaramente in quell'occasione sono venute fuori tutta una serie di problematiche, anche nello specifico c'era, non lo so, l'ANEC che viene e ti dice chiaramente il problema dell'esercizio è questo, c'è il produttore che ti dice il problema per noi è quest'altro. Chiaramente il discorso delle sale chiuse è un po' il leitmotiv, perché in qualche modo accomuna un po' tutti, cioè il problema, uno dei problemi più importanti è che essendoci moltissime sale chiuse, non essendoci sale che danno spazio al cinema indipendente, chiaramente sia il produttore che il distributore che il regista sono tutti penalizzati, il film si fa magari ma poi non esce in sala, quindi resta lì, quindi chiaramente il problema delle sale chiuse è stata la cosa più importante. Questo per dire che in seguito a una risposta positiva che abbiamo avuto dalla Commissione Cultura, che ha detto ok, facciamo questo tavolo tecnico, lì ci siamo chiesti: ma il cinema indipendente vuole partecipare, chiaramente deve partecipare a questo tavolo tecnico, ma come può muoversi, come può in qualche modo avere una voce che potesse interloquire con le istituzioni, con gli enti e con tutte le altre varie parti che in qualche modo entrano in tutto il processo e il percorso sul cinema a Roma. E allora lì abbiamo deciso: costituiamo un movimento, in un certo senso un gruppo, un grande gruppo, un grande movimento, anche diciamo un movimento di pressione che possa, come dicevo appunto, interloquire anche e soprattutto con le istituzioni, ma che possa dire la propria, che dica appunto: il nostro problema è questo, è questo e quest'altro, in realtà magari fosse uno, però ecco, una voce unita, coesa, attorno ad un'idea comunque, attorno ad un progetto comunque molto aperto, da lì il manifesto, perché ci voleva comunque una pietra, un punto di partenza, però l'idea è quella di dare un po', voi sicuramente conoscete l'esperienza dei 100 autori. Sì. Non la voglio assimilare perché chiaramente è molto diversa, però ecco, lì parliamo di 100 autori, parliamo di ambiente diverso del cinema. Ecco, non c'è, non dico un equivalente, non c'è una realtà nel cinema indipendente che rappresenti con una certa forza una voce. Noi abbiamo pensato non soltanto agli autori, ma a tutti, veramente, anche perché col cinema, insomma, con questo tipo di cinema abbiamo un'esigenza anche diversa e anche dei bisogni un po' più particolarizzati e non abbiamo la stessa visibilità. Quindi abbiamo detto: uniamo veramente tutti, dai festival appunto ai produttori, distributori, alle maestranze, agli artisti, ai tecnici, tutti coloro che vorranno aderire a questo movimento per renderlo più corposo, più forte e perché possa appunto essere chiamato in causa quando è giusto che venga chiamato in causa, perché esiste semplicemente, c'è ed esiste a Roma e non soltanto a Roma, e fa anche delle bellissime cose, quindi come ben sappiamo è un po' questo, ecco, la nascita di Nuovo Cinema nasce da questa esigenza e adesso vediamo un po' dove arriverà, però spero di aver risposto alla tua domanda. Sì, no, volevo chiederti, Adele, finora quali sono le strutture e le realtà che hanno risposto alla vostra chiamata? Noi abbiamo fatto soltanto un incontro, che è stato un incontro preliminare fatto 2 giorni fa, ma in realtà la nostra, diciamo, ci siamo mossi per l'incontro del 6, che era l'incontro che abbiamo fatto in Campidoglio, quindi a Palazzo Senatorio in Campidoglio, e lì sono venuti moltissimi, sono venuti tutti, abbiamo avuto la Film Commission, abbiamo avuto l'ANE, parlo di tutte le realtà, non so, poi tutti i produttori e distributori indipendenti, tantissimi, e poi sono venute moltissime altre rappresentanze. Infatti abbiamo avuto la CNA, l'ANEC, l'ANAC, quindi l'Associazione Nazionale Autori Esercenti, la Film Commission, come dicevo prima, ci sono stati insomma diverse partecipazioni, perché chiaramente lì c'è stata una bellissima risposta, un grande entusiasmo, e questo soprattutto perché, come dicevo, c'è un forte ritardo e delle grandi difficoltà in questo momento. Quindi le biblioteche di Roma, insomma, diciamo tutte le parti che poi lavoravano, l'UNESCO, perché poi Roma Città del Cinema per l'UNESCO e via dicendo, cioè sono venute moltissime rappresentanze, e poi chiaramente è venuto tutto il mondo del cinema indipendente, quindi distributori, produttori e via dicendo, e poi sono venuti molti registi, molti attori che orbitavano insomma attorno a noi, al nostro lavoro gli scorsi anni, e continuano comunque anche loro a sentire un'esigenza di cambiamento, ecco. Senti, prossime scadenze ve le siete date anche pubbliche? Noi abbiamo in pratica, lo abbiamo fatto come ti dicevo, un incontro poi preliminare per approvare, per costituire questo manifesto, perché ci voleva comunque un'idea di partenza e che fosse abbastanza condivisa, e lo è stata molto, quindi ci siamo confrontati con coloro che hanno partecipato a questo incontro, che è seguito quello del 6 ottobre in Campidoglio, e adesso il nostro obiettivo, durante questo incontro abbiamo presentato alcuni punti, alcune proposte, e ci stanno arrivando altre proposte da tutti coloro i quali stanno aderendo a questa iniziativa. Il manifesto e l'idea è partita ieri, ieri notte, quindi è partito il manifesto, si è costituito questo nuovo cinema, quindi è una cosa veramente freschissima, anche tu arrivi proprio a tempo incredibile, e da qui adesso noi iniziamo a raccogliere intanto le adesioni, poi le varie proposte, perché il primo appuntamento che ci sarà quello con la Commissione Cultura di nuovo, che farà il primo incontro tecnico il 5 di dicembre, quindi ci hanno confermato questa cosa tre giorni fa. Il 5 di dicembre la Commissione Cultura convocherà le varie rappresentanze a Roma per parlare in prima istanza dell'esercizio, quindi delle sale, e poi nei successivi tavoli ci ha fatto presente che si affronterà il problema della produzione e poi quello della distribuzione. Il 5 verrà affrontato appunto quello dell'esercizio, quindi anche noi andremo lì a dire la nostra, perché abbiamo fatto una grandissima ricerca sulle sale, abbiamo una proposta sulle sale comunali chiuse e anche poi chiaramente una proposta sulle sale sulle sale private, perché insomma sapete che ce ne sono circa 40, 43 nello specifico sale chiuse a Roma, quindi noi abbiamo fatto tutta una ricerca sul territorio. Abbiamo visto che ci sono dei municipi di Roma che non hanno neanche una sala cinematografica, ma la maggior parte, perché poi la maggior parte dei cinema sono concentrati nel primo, nel secondo, nel terzo municipio, sì, sì. Ma ci sono delle aree totalmente in cui il cinema sono totalmente assenti. E questo per quanto riguarda le sale cinematografiche, ma poi ci sono anche, appunto, come ho detto, le sale cinematografiche del comune, e noi su quelle abbiamo aperto proprio una ricerca, poi una richiesta e una proposta, perché vengano portate a bando il più possibile, vengano rimesse insomma per la cultura romana, ma soprattutto per il cinema indipendente, perché sì, le sale comunali, non c'è una sala comunale aperta, e soprattutto insomma dovrebbero essere quelle a sviluppare una sensibilità verso un certo tipo di programmazione cinematografica. Senti, allora Adele, in chiusura diamo nuovamente i riferimenti internet per chi volesse saperne di più? Sì, certo, allora sicuramente è importantissimo collegarci al nostro caro Facebook, lì abbiamo una pagina che abbiamo creato, appunto, che è Nuovo Cinema, ma c'è anche un gruppo che all'interno del quale chiaramente le informazioni sono un po' più dettagliate e circolano proprio per coloro i quali si sono iscritti e sono iscritti all'interno di questo gruppo e vogliono appunto seguire tutte le iniziative. Quindi io inviterei intanto tutti quanti a frequentare la nostra pagina Facebook, perché lì lanceremo comunque tutte le conferme di questi appuntamenti e le nuove iniziative, ma accogliamo sia attraverso Facebook che attraverso l'email, che è nuovocinema2016@gmail.com, accogliamo intanto le adesioni e poi da lì ovviamente anche le proposte e i prossimi appuntamenti. Quindi sicuramente per il momento è Facebook il nostro punto di riferimento, perché c'è un po' la possibilità con questo social di creare un po' di comunità e di scambio, e stiamo facendo, insomma, stiamo facendo questo percorso qui. Poi le altre cose che verranno, insomma, spero che ne verranno, ecco, spero che sarà così, verranno comunque lanciate sempre attraverso la nostra newsletter, e quindi attraverso la mailing list, e quindi abbiamo già 200 iscritti e tutte le conferme che stanno arrivando adesso attraverso appunto il gruppo Facebook. Benissimo, allora ci sentiamo per i prossimi appuntamenti magari. Sì, volentieri, ti ringrazio molto per questo spazio, ringrazio tutti per l'ascolto. Ciao Adele, a presto. Ciao, buon lavoro, ciao. Ciao. Adele Dell'Erario sul progetto Nuovo Cinema. Giulia Mariani di Adler Entertainment sulla distribuzione del film Night of Cups, in uscita in sala, è uscito ieri 9 novembre al cinema. Giulia, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti. Allora, raccontiamo un po' intanto di cosa stiamo parlando, cos'è Night of Cups? Night of Cups è l'ultimo film di Terrence Malick che parla di, il protagonista del film è Christian Bale, ha un cast pazzesco questo film, come tutti i film di Malick tra l'altro. Il protagonista è Christian Bale, che interpreta Rick, che è uno sceneggiatore arrivato a una fase di si può dire di stallo della sua vita e alla ricerca di un qualcosa che lo soddisfi. Ovviamente lui ha tutto, ha fama, successo, ha donne, vive questa vita privilegiata a Los Angeles, ma si rende conto che non è quello che vuole, e quindi il film si parla e si incentra su questo, diciamo. Terrence Malick, un regista molto amato, dei film, ha cominciato, se non sbaglio, erano i primi anni 70. Sì, esatto, esatto. E poi ha continuato centellinando comunque i suoi lavori. Sì, è un regista ormai si può definire di culto, perché è ormai a 40 anni che fa film e ce li fa aspettare molti, sì, Terrence Malick, perché dopo due film negli anni 70 ha avuto un momento di pausa lunghissima negli 80 per poi fare due o tre capolavori tra gli anni 90 e gli anni 2000, ma comunque una produzione limitatissima e di film tutti immensi. Infatti è, cioè, si può dire tranquillamente che è uno dei massimi autori contemporanei. Due sono gli elementi che mi hanno colpito di questo film: la lirica, che ormai accompagna tutta l'ultima produzione di Terrence Malick, e una maestosità dell'immagine. Eh sì, certo, la fotografia di Lubezki, ormai fido collaboratore di Malick, è sempre pazzesca e vale solo quella per me il prezzo, sì, del biglietto, sì, da, sì, vedere assolutamente sul grande schermo. Ed è proprio l'immagine, la fotografia sono ormai gli elementi principali dei film di Malick, perché ormai si può dire che ha superato un po' la sceneggiatura, la storia. Il cinema di Malick ormai è un'esperienza, è immagine e meraviglia, se si può definire tale. È questa la sensazione che dà. Senti, quali sono stati, vabbè, un po' in parte già hai risposto, però gli elementi che ti hanno catturato di questo film? No, è un film che abbiamo voluto da subitissimo, cioè dagli albori non c'era niente, c'era solo il progetto e il fatto che fosse un film di Malick, è essenzialmente quello. E come già detto, perché è uno dei massimi registi contemporanei, e come dicevo, il fatto che non ci sia una sceneggiatura è anche quello su cui non abbiamo potuto fare leva noi, nel senso che non l'abbiamo letto, ovviamente, perché non l'hanno letto neanche gli attori hanno improvvisato per tutte le riprese, e quindi no, noi abbiamo voluto solo il progetto per quello che è. Che tipo di risposta hanno i film in Italia, i film di Malick in Italia? I film di Malick in Italia sono sempre una bella scommessa, perché è un autore molto amato dal suo pubblico, ma anche molto difficile. E è un po' questa la scommessa che ci ha attirato. Speriamo che di riuscire comunque a soddisfare la fan base e anche chi Malick ancora non lo conosce, se c'è ancora qualcuno che non conosce Malick. Senti Giulia, che tipo di distribuzione avete scelto per questo lavoro? Ma molto ristretta, perché ce lo stiamo coccolando, l'abbiamo sudato, perché è stato veramente un parto questo film, e quindi adesso lo facciamo uscire in poche copie, una ventina nelle sale di qualità. E all'estero com'è andata? Ma all'estero è andato abbastanza bene, sempre un po' a rilento, nel senso che è stato presentato a Berlino ormai un anno fa, e quindi l'hanno aspettato tutti per parecchio tempo. Ora è arrivato, arriva nelle sale italiane, siamo molto contenti e ci auguriamo il meglio. Senti, per saperne di più sulla distribuzione ci lasci riferimenti web? Sì, certo, il nostro sito è www.adler-ent.com e da lì poi si accedono alle pagine Facebook, Twitter, dove si possono trovare tutte le informazioni. Giulia, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille a voi. Ciao. Ciao. Giulia Mariani di Adler Entertainment sulla distribuzione del film Night of Cups di Terrence Malick, in uscito ieri in sala mercoledì 9 novembre 2016. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. La scaletta e le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Eccoci con Giampaolo Cugno, regista del documentario I Cantastorie, in uscita in sala oggi giovedì 10 novembre. Giampaolo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a tutti e salve a tutti e buona giornata a tutti da me e da tutta la mia equipe che sta promuovendo e distribuendo il film in tutta Italia. Senti, sono sincero, non sono riuscito a venire a vederlo, però ci tenevo tanto a parlarne e per cui raccontalo anche un po' a me, oltre a chi ci ascolta, questo Cantastorie, Giampaolo. Sì, prima hai detto documentario, non è un documentario, ma è un film. È un film. Ok. È la storia di un padre e una figlia che cercano di salvarsi la vita e lo fanno con questa idea folle di fare Cantastorie in giro per la Sicilia, mm-hmm, senza averne il talento, o forse poi ce l'hanno il talento soprattutto per vivere, solamente che lo scoprono man mano che fanno questo viaggio. Infatti il film è un film, appunto, come si suol dire, on the road. Senti, come nasce quest'idea? Ma nasce da un sogno, un sogno che mi ha fatto ricordare di aver vissuto da bambino piccolo una scena che avevo rimosso. Invece il sogno ha riportato nella mia testa questa scena, perché quando si hanno 2 o 3 anni difficilmente poi ci si ricorda delle cose accadute in quell'età così. Dicono che la memoria parta dai 3 anni, però poi insomma non lo so. Sì, ma il sogno io l'avevo rimosso completamente. Cosa avevo rimosso? Avevo rimosso questa scena di questo Cantastorie, perché essendo nato io nel 68, forse gli ultimi Cantastorie andavano in giro negli anni 70, primi anni 70, poi man mano sono stati spazzati via dalla programmazione proprio televisiva un po' più massiccia, con l'aumento dei canali e quindi con l'epoca che cambia. E quindi io ho avuto questo sogno, mi ha fatto ricordare questa scena e mi ha detto: ma perché no? Non è stato mai fatto un film sui Cantastorie, e allora l'ho cominciato a scrivere. Però non è un film che racconta i veri Cantastorie, che ce ne sono ancora parecchi in vita. Io ne ho utilizzato uno che in realtà è un Cantastorie che è di questa città di Vittoria in Sicilia, si chiama Giovanni Gadavola, ricordo nel film c'è Davide Coco, Tiziana Lodato, la bambina Maria Teresa e tanti altri attori molto bravi siciliani. E niente, il mio terzo film, dopo il film Salvatore Questa è la vita, con prodotto dalla Disney e la bella società di Medusa, adesso ho voluto fortemente fare questo film, come che io chiamo, polveroso, un po' come erano i film del neorealismo. Senti, mi dicevi che tutto nasce da un sogno, dall'infanzia. Com'è il tuo rapporto con la tua terra? Beh, la mia terra intanto è l'Italia, adesso è l'Europa, la intendo. Certo. Se potrei mia terra, vogliamo parlare della Sicilia dove sono nato, e il rapporto è meraviglioso perché c'è l'arte, l'ambiente, tutto ciò che è la cultura è proprio in ogni angolo, malgrado ciò io soffro, però purtroppo essendo un esteta soffro del vedere gli scempi architettonici. Poi mi rifaccio gli occhi andando per esempio a Noto, dove è stato girato gran parte del film, e poi anche nella Sicilia occidentale, Mazara, Marsala, un sacco di piazze bellissime, tutto il territorio dove sono nato, di Pachino, mi rifaccio gli occhi così. Però devo dire, ogni volta che torno subisco forse eccessivamente, perché poi lo sento anche dagli amici che vengono da fuori a passare le vacanze, per esempio, o da turisti in genere, che vedono solo bellezza. Io non riesco a vedere solo bellezza e sono fatto così. Senti, che distribuzione avrà i Cantastorie? I Cantastorie è un film che distribuiamo in tutta Italia, solamente che abbiamo scelto un metodo nuovo, non è nuovo, insomma, un po' che non si usa molto, ma che evita di bruciare i film dopo 3 giorni, perché non è più importante tanto il marchio distributivo del film, considerando che io ho fatto il film distribuito dalla Walt Disney e poi dalla Medusa Mediaset, e in questo caso lo distribuiamo direttamente noi volontariamente, perché no, volevo far tenere in vita il film per alcuni mesi, non tre una settimana come accade, perché si affollano i film, spesso i film vengono smontati anche se incassano, sì. Perché il cinema ha preso una prenotazione di un altro film, sì, è sì, un sistema sì. Che andrebbe completamente rivisto, sì, c'è un problema, un sistema che andrebbe rivisto completamente, sì, di offerta. Quindi abbiamo scelto di, per esempio, iniziare molto dalla Sicilia, dove io presenterò i film in tantissime città, e man mano saliamo su verso il centro nord, la Calabria, la Puglia, poi Roma e poi il nord, perché altrimenti, sai, adesso è importante anche la presenza, certo, degli attori, certo, del cast, non certo. Solo la premiere a Roma e basta, o poi nelle regioni, ma è importante proprio che l'esercente vuole anche questo, ecco. Sì. Quindi stiamo promuovendo il film, abbiamo avuto le prime critiche, devo dire abbastanza molto positive, forse le migliori che ho avuto per adesso, poi in seguito magari ce ne saranno anche di negative, perché è giusto che sia così, spero di no ovviamente. Comunque il film è anche nella G-scuola, è un film a G-scuola, è una storia allegorica, una storia poetica allegorica, è una storia, non ti permettono quasi più di fare questo genere di film, sì. Devi cercarlo con forza di farlo tu, ecco, così come ho fatto io. Benissimo, allora Giampaolo, ci lasci anche i riferimenti web, se allora, c'è un sito del film? Sì, basta andare sulla pagina Facebook I Cantastorie e c'è il calendario delle mie presenze, delle presenze del cast, ricordo David Coco, Tiziana Lodato, la piccola Maria Teresa e tanti altri attori, sul sito Facebook I Cantastorie c'è il calendario su tutte le uscite in tutte le città e i posti dove io andrò a presentarlo insieme al cast. Benissimo, allora Giampaolo, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci magari per le prossime novità. Grazie, credi, grazie. Arrivederci a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Giampaolo Cugno, regista del film I Cantastorie, in uscita in sala oggi, giovedì 10 novembre. Allora, in attesa di recuperare il collegamento telefonico con il nostro ospite per parlare di Gabo, il documentario su Gabriel García Márquez, siamo in collegamento ora con Stefano Duardi, regista del film Mancanza, Purgatorio, che sarà qui a Roma, al Cinema dei Piccoli, oggi e la prossima settimana, il 17 novembre. Stefano, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao Federico. Allora, mi avevi contattato per questo tuo nuovo lavoro, raccontacelo un po', Stefano. Sì, in breve è la seconda parte di una trilogia sulla quale sto lavorando. La prima è stata appunto Mancanza Inferno, girata all'Aquila con gli abitanti dell'Aquila, e la seconda appunto è questa Mancanza Purgatorio e seguirà il Paradiso. Qui a Roma appunto presentiamo il Purgatorio ed è così una semplice, è la storia di un angelo che naviga su una nave cargo che trasporta dei container, e lei in una sorta di viaggio verso l'ignoto, e in un altro luogo abbastanza metafisico c'è poi un gruppo di esseri umani che è lì in attesa di una possibile salvezza. Stefano, ci parli un po' del progetto di questa trilogia, come è nato, come l'hai sviluppato? Certo, la trilogia nasce da una mia necessità, il titolo Mancanza è significativo perché è una mia necessità di un po' di analizzare il vuoto così che contraddistingue l'essere umano e la sua necessità di riempirlo con il quotidiano, con la vita, e per questo diciamo mi faccio molto riferimento poi al valore significativo che è quello poi dell'immaginazione e del dubbio, come necessità di creare, di generare poi un cinema che non utilizza certezze, e in questo senso appunto non utilizza una sceneggiatura, quindi è un film non scritto, ma sì, è ancora più giusto dire un film non scritto, perché vuol dire che è un film che non utilizza la parola scritta. Nel caso di Purgatorio, per esempio, ho realizzato degli acquerelli informali che sono stati anche già esposti a Cagliari in occasione di una mostra sul cinema italiano, e questi acquerelli sono diventati per me il mezzo visivo per, diciamo, rappresentare la mia visione, la visione stessa del film. Quindi in questo senso, un senso, un progetto che veramente analizza il cinema come linguaggio, ecco. Stefano, e per la circuitazione di questa tua trilogia, come ti stai organizzando? Allora, ovviamente è un film che non ha una sceneggiatura, è complessa la distribuzione perché non si possono fare i pre-sales, i cosiddetti pre-sales, quindi noi ci stiamo organizzando con una distribuzione indipendente, quindi appunto abbiamo iniziato a Cagliari, continueremo con Roma, poi saremo in Abruzzo e siamo quindi alla ricerca anche di altre sale che vogliono ospitare il film, che il film che io adesso sto presentando anche insieme all'attrice protagonista, che è Angelica Vallari, che è l'unico ruolo che nel film è sempre presente nella trilogia, mentre gli altri sono appunto attori non professionisti che vengono presi con dei casting fatti in luoghi che appunto io scelgo per poi rappresentare lo stato d'animo di una situazione infernale o di attesa o futura del paradiso. Angelique è l'unico personaggio che nel film torna sempre. Nel caso del Purgatorio è un angelo Ulisse, questo è molto interessante perché lei rappresenta appunto un angelo che vuole tornare a casa, e per realizzarlo ci siamo ispirati sicuramente a Omero, quindi all'Odissea, e quindi in questo viaggio anche Angelique, in questo viaggio nei cinema anche Angelique ci aiuterà a portarlo un po' in giro per le sale, ecco. Senti Stefano, che tipo di risposte ha avuto il tuo primo lavoro della trilogia? Allora, il primo lavoro è stato presentato al Festival di Rotterdam nel 2014 nella selezione ufficiale, e poi abbiamo un po' come questo, abbiamo girato un po' di sale e devo dire che sono stato molto soddisfatto, specialmente della risposta del pubblico cosiddetto semplice, perché comunque è un film che è abbastanza complesso, che però riesce a toccare comunque delle corde emotive che appartengono un po' a tutti. Siamo stati anche ospiti della Biennale Musica, perché c'è un lavoro particolare sulla musica contemporanea realizzato da Andrea Manzoli. Abbiamo avuto 12 proiezioni a Venezia e si è creato un bel interesse rispetto al progetto come cinema di linguaggio, ecco, lo ripeto, sì. Sì, sì, sì, sì. Senti, e per quanto riguarda la terza e ultima parte? Allora, sì, siamo già in preproduzione, non posso ancora dire dove andrò perché per scaramanzia però ecco, il paradiso forse sarà l'episodio più complesso, perché la ricerca della felicità magari, perché il paradiso cercherà di capire se poi esiste o meno una felicità, se possa esistere, è una cosa complessissima, insomma, che noi come esseri umani quotidianamente ci confrontiamo. Però io ho già individuato un luogo dove vorrei girarlo, un gruppo di abitanti con i quali vorrei girarlo. Tornerà appunto di nuovo anche Angelique nel ruolo di un angelo, però in un suo contesto quasi naturale, perché appunto un angelo porta felicità. E il luogo ce l'ho, per scaramanzia non posso dirlo, ma siamo in preproduzione, siamo a un buon livello di produzione, ecco. Stefano, mi veniva in mente rispetto al tuo primo episodio, chiamiamolo così, la città dell'Aquila, qual è la sua realtà oggi? Beh, da quello che so che la ricostruzione sta andando avanti, quello che so dagli amici che sono lì, però so anche che comunque è una realtà difficile, perché gli aquilani sono poi stati comunque portati via dai luoghi dove abitavano, quindi messi in queste new town, quindi sradicati, se vogliamo, e questo, quindi secondo me questo trauma psicologico, questo trauma resta, almeno da come ne parlo con i miei cari amici aquilani, ecco. Per saperne di più su Mancanza Purgatorio ci lasci riferimenti internet? Sì, allora c'è un sito mancanza-lac.it, ma c'è anche una pagina Facebook, basta cercare Mancanza e si trovano tutte le informazioni sul film. Benissimo. Allora, un abbraccio e risentirci presto. Grazie mille, buona giornata. Ciao Stefano. Ciao, ciao. Stefano Oduardi, regista del film Mancanza Purgatorio al Cinema dei Piccoli qui a Roma oggi e il prossimo giovedì 17 novembre. Allora, adesso un ospite che non abbiamo avuto il tempo di inserire in scaletta, Alessandro Cipriani di Edison Studio, per parlarci di due appuntamenti relativi a Roma, sabato e domenica, per la musicazione di film dal vivo all'interno del Roma Europa Festival. Alessandro, intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Saluti a tutti. Ci parli di queste due giornate, di sabato e di domenica? Sì, allora, innanzitutto, diciamo il 12 alla Casa del Jazz ci sarà la serata finale di un concorso che è stato organizzato da Edison Studio. E in questo concorso, che era per compositori e per le immagini, quindi è un concorso internazionale che si chiama Sounds of Silences, cioè suoni dei silenzi, e che al quale hanno partecipato quasi 200 giovani compositori. Era dedicato a compositori sotto i 35 anni e quindi anche per dare uno spazio alle nuove generazioni che stanno a volte fanno fatica, diciamo, ad entrare anche nel mondo del lavoro. E da queste 200 persone, di cui 80 straniere e 120 italiane, sono stati selezionati tre finalisti, che sono Lorenzo Pezzella, e Vincenzo Core e il duo Sauro Mori e Daniele Quaglia. E ognuno di loro ha preparato una colonna sonora per un film, per un corto diverso, diciamo. Ognuno, Pezzella farà un lavoro del 1909 che si chiama Viaggio su Giove, e un altro, Vincenzo Core, farà ha fatto un lavoro su One Week di Buster Keaton, e Sauro Mori e Daniele Quaglia hanno fatto un lavoro su un muto cinese del 1927. Quindi sono tre film muti che sono stati risonorizzati, e il concorso era gratuito e anonimo, e i ragazzi adesso si contenderanno, diciamo, questo primo premio. Però c'è un primo premio di 3.000 euro, un secondo di 2.000 euro e un terzo di 1.000 euro, e quindi, diciamo, in questa serata sarà possibile vedere questi lavori. Ci sarà una giuria composta da Andrea Ramagnani della Cineteca di Bologna, e Monique Watt della Fondazione Roma Europa, Claudio Ambrosini, che è un compositore, Ivo Nilsson, che è un compositore e trombonista svedese, e Giulio Latini, che è un docente di comunicazione multimediale presso l'Università di Tor Vergata. E quindi questa è una serata un po' particolare, che poi finirà anche con un piccolo cocktail per chiunque vuole venire, e si vedranno questi tre film, e poi ci sarà l'assegnazione dei vincitori, l'assegnazione dei premi ai tre vincitori. Sì. Dopodiché, sì. Il giorno dopo invece c'è una cosa completamente diversa, cioè il gruppo di Edison Studio, che è formato da quattro compositori: Luigi Ceccarelli, Fabio Cifariello Ciardi, Mauro Cardi e io, che sono Alessandro Cipriani, che da molti anni questo gruppo da molti anni costruisce delle colonne sonore per film muti dal vivo, ma con una particolarità, cioè noi non costruiamo solamente la musica, ma all'interno della musica ci sono anche tutti gli ambienti sonori del film che vengono ricostruiti, e persino le voci. E quindi praticamente, più che una colonna sonora, si tratta di una reinterpretazione sonora completa di questi film. In particolare il film del 13 dicembre, che verrà eseguito per due volte alla Pelanda, quindi al macro. È un film di Hitchcock, si tratta di Blackmail. Blackmail vuol dire ricatto, è l'ultimo film muto di Hitchcock e contemporaneamente anche il primo sonoro, nel senso che Hitchcock stava lavorando a questo ultimo film muto e in quel momento si è resa disponibile una prima versione, diciamo, della tecnologia per la sincronizzazione con il sonoro. E quindi il mondo poi ha conosciuto, soprattutto in quel momento, il 90% delle sale hanno proiettato il muto perché non c'erano tecnologie a disposizione, ma poi nel tempo questo film è stato conosciuto come film sonoro e la parte muta, diciamo la versione muta, che secondo noi è più bella, è andata un po' nel cassetto, diciamo, nessuno l'ha guardata più. E noi abbiamo deciso di riprendere questo muto e di fare questa musica dal vivo, e abbiamo due ospiti eccezionali, che sono appunto Ivo Nilsson, che è un trombonista, e Daniele Roccato, che è un contrabbassista. Quindi dal vivo suoneremo con l'elettronica e con questi strumenti elaborati in tempo reale. Benissimo. Alessandro, allora ricordiamo l'appuntamento, questi due appuntamenti di musicazione dal vivo di film muti alla Casa del Jazz il 12, sabato 12, alla Pelanda il 13 novembre. Gli orari di entrambi gli appuntamenti? Allora, alla Casa del Jazz è alle ore 21, sì. Mentre alla Pelanda. In questo momento alla Pelanda ci sono due proiezioni. Due proiezioni e in questo momento non ricordo gli orari. Però, a questo punto però basta, diciamo, si può andare sul sito di Roma Europa, che è il festival che ospita queste due iniziative, e vedere. Comunque sono uno di pomeriggio e l'altro di sera. Bellissimo. Allora un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto, Alessandro. Grazie a voi dell'attenzione. Ciao Alessandra, ciao. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Andiamo avanti con i nostri collegamenti telefonici. Bene, allora riproviamo il collegamento con Terenzio Cugia di Cineama sulla distribuzione del documentario Gabo, il mondo di García Márquez, in uscita in sala oggi giovedì 10 novembre. Terenzio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Allora, raccontaci un po' di questo documentario per chi ci ascolta, di come è raccontato García Márquez. Innanzitutto mi scuso con gli ascoltatori, ma sono negli Stati Uniti e purtroppo la linea non è molto buona. Ho sentito poco di quello che mi è stato chiesto. Credo che si chieda di raccontare il film di Gabo? Sì, esatto. Esatto, beh, una biografia avvincente e molto personale di quello che è stato per molti il più grande scrittore in lingua spagnola dopo Cervantes, García Márquez, appunto, che non solo è stato un grandissimo scrittore, ma ha avuto una vita straordinariamente ricca ed interessante, inclusi tutta una serie di attività politiche con Cuba, la sua amicizia con Fidel Castro e dunque essere anche un po' nel mirino della CIA americana. Per cui è una vita spesa non solo per la letteratura, ma per la libertà e contro la tirannia, ed è una vita molto molto interessante ed avvincente, raccontata da amici, collaboratori che hanno lavorato con lui, ma anche da personalità come Bill Clinton ed altri. Senti, che ritratto ne emerge dal documentario dello scrittore? Ah, direi un ritratto con tutti oscuri, nel senso che il talento creativo di García Márquez esce fuori prepotentemente già dai primi articoli di giornale che scrisse, che appunto parlavano dei vari colpi di Stato che stavano avvenendo in quei giorni nei paesi sudamericani, per cui c'è un forte impegno contro la tirannia, che tra l'altro è uno dei temi che viene spesso trattato nei libri di García Márquez. Dall'altra parte c'è questa specie di fascinazione con il potere e questa amicizia molto criticata con Fidel Castro, lui in un certo periodo viene tacciato ad essere quasi lo scrittore dei rivoluzionari, incluso con molte fazioni estremiste del Sud America che stanno lottando contro i dittatori, per cui si ritrova in una posizione scomoda nella quale si rifugia dicendo che appunto l'unica arma che ha mai impugnato è la macchina da scrivere, che è vero, però chiaramente ogni regime ha bisogno dei suoi apologi, per cui è chiaro che non è una risposta definitiva e rimangono delle ambiguità su quello che poi erano i veri ideali ed obiettivi di García Márquez. Senti, rispetto invece alla sua scrittura? Sulla sua scrittura diciamo che c'è moltissimo ovviamente sia da parte di colleghi, si vede ovviamente anche la premiazione del Nobel per la letteratura, ma si sviscerano un po' quelli che sono le cause, le storie che hanno condizionato poi il racconto, il realismo magico di García Márquez, dalla sua infanzia in Colombia a tutta una serie di avvenimenti che passano per il fatto che la pensione dove viveva con il padre viene bruciata a seguito di una protesta che a sua volta seguiva un assassinio di un candidato politico libertario, e questo episodio di violenza condiziona moltissimo poi la sua scrittura in tanti aspetti. Infatti la cosa interessante del film è che si riesce ad avere uno spaccato molto chiaro del Márquez uomo, ma anche del come sono arrivate alcune delle ispirazioni per i suoi libri. Senti, per quanto riguarda il documentario, come l'avete contattato e come avete poi deciso la distribuzione? Diciamo che la proposta ci è arrivata da una società inglese che aveva già collaborato con noi sul film Fede per Santiago, per cui abbiamo visto il loro nuovo listino, abbiamo visto che c'era questo film su García Márquez e credendo che appunto sia una delle forze più importanti della letteratura del XX secolo e credendo che ci sia forte interesse verso questo scrittore che è molto amato anche da noi, abbiamo ritenuto di fare un regalo alle persone che poi saranno andate a vederlo, perché oltre ad essere una storia molto interessante è un film che è stato molto bene, per cui diciamo che siamo stati molto convinti subito che era un prodotto abbastanza unico e realizzato con tantissimo materiale di archivio che non era stato visto prima, per cui Justin Webster, che è il regista, ha fatto un lavoro documentale mostruoso, è riuscito ad avere moltissime immagini anche del periodo giovanile e testimonianze da persone molto interessanti, e i 90 minuti del film passano veramente in un attimo. Senti Terenzio, per quanto riguarda la distribuzione, come farete? In quante sale arriverà? Allora, è un periodo molto molto complicato questo, perché stanno uscendo i film di Natale, chiaramente ci sono società di distribuzione molto grandi che stanno spingendo sui cinema per uscire i loro film, per cui usciremo inizialmente in una decina di copie, e però contiamo sul fatto che ci sia poi un passaparola per permettere in programmazione in tutta Italia, diciamo per oltre 6 mesi, cosa che abbiamo fatto quasi sempre con i nostri documentari. Diciamo che non li spingiamo come un'uscita da 100 copie o 150 copie, ma poi perseveriamo nel corso dei mesi, ovviamente facendo molto lavoro su Facebook. Appunto, se avete un interesse verso questo film, iscrivetevi alla pagina del film Gabo e il Team su Facebook e troverete poi lì tutti gli eventi, le informazioni su quando verrà proiettato nelle varie città. Molto spesso il fatto di avere un gruppo di persone interessate a vederlo spinge poi il cinema a programmarlo. Noi li programmiamo molto spesso come eventi, con anche magari un professore o qualcuno che può intavolare una discussione dopo il film, perché il film si presta appunto molto al dibattito. Benissimo. Allora, un abbraccio, e i riferimenti web ce li hai lasciati. A risentirci presto, Terenzio. Grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao, ciao, ciao. Terenzio Cugia di Cineama sulla distribuzione del documentario Gabo, il mondo di García Márquez, in uscita in sala da oggi, giovedì 10 novembre. Con Andrea Paco Mariani sulla piattaforma europea OpenDDB, un'importante novità. Andrea, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Allora, era in serbo da un po' di tempo, ora ci siamo, dici un po' di cosa si tratta. Sì, siamo molto molto contenti, anche perché è stato un lavoro veramente impegnativo e complesso, di poter annunciare che finalmente Distribuzione al Basso si è trasformato in un portale multilingue europeo. Per chi non lo sapesse, noi erano già diversi anni che stavamo cercando di fare questo passo nella consapevolezza che il percorso, gli immaginari che portiamo avanti potevano e dovevano parlare in più lingue, e finalmente lo scorso anno siamo riusciti a vincere questo bando nazionale che si chiama Che Fare, Bando Che Fare, nella sua terza edizione, e quindi ad avere le risorse per poter avviare tutto il processo di trasformazione sia del sito che delle funzionalità in multilingua. Da questo lunedì, all'ora di pranzo di lunedì scorso, 7 novembre, dopo mesi di lavorazione, siamo riusciti appunto a mandare online la nuova piattaforma, che oltre a tutto ovviamente un restyling in termini di grafica e anche di funzionalità del sito, soprattutto però il vero punto chiave è che tutto il sito è navigabile in italiano, inglese e in francese. Questo principalmente significa due cose: non solo che ora tutte le opere e gli autori che ospitiamo su OpenDDB riusciranno a veicolare le loro opere anche all'estero in altri paesi, ma altrettanto importante dal punto di vista del network degli autori indipendenti che negli anni abbiamo cercato di costruire, oggi finalmente possiamo iniziare a dialogare e a mescolarci anche con esperienze simili alle nostre in altri paesi, quindi portando anche in Italia attraverso la piattaforma opere di registi indipendenti, case editrici indipendenti, musicisti indipendenti, per fare in modo appunto che questa rete possa diventare ancora più articolata, anche perché chiaramente non è solo un discorso quantitativo ma anche qualitativo in termini di come esperienze diverse possono confrontarsi, mescolarsi tra di loro e generare relazioni positive per tutti. Benissimo. Senti, ci anticipi già qualcosa rispetto ai prossimi passi? Ma allora, noi, se voi appunto visitate il nuovo sito, che è appunto opendb.it, sicuramente potrete notare che la logica di funzionamento e il cuore dell'immaginario di distribuzione al basso non è stato assolutamente cambiato, perché okay, ovviamente il punto non era quello. Il punto adesso è che non solo tutti i materiali sono disponibili in diverse lingue con il comodissimo tasto del download dell'SRT, del sottotitolo in multilingua, quindi su ogni scheda presente su ogni scheda di documentari l'utente può non solo verificare prima di fare il download in che lingua originale è il film, ma può anche visionare in quali lingue sottotitolate è disponibile. E quindi, nel senso, si è lavorato molto su questo tipo di funzionalità per quanto riguarda l'utilizzo delle opere che abbiamo in catalogo. E noi adesso, ovviamente, questa cosa che vi dico ora non si evince ancora dal sito, ma ve la possiamo in qualche maniera già raccontare. Ovviamente noi adesso stiamo lavorando per iniziare a sviluppare delle relazioni con altri collettivi indipendenti in giro per l'Europa. Siamo in contatto con delle interessanti realtà del cinema indipendente, per esempio su Marsiglia, su Lione e su Bruxelles, e stiamo iniziando appunto a chiacchierare insieme per trovare un modo di dialogare e di costruire una rete insieme, partendo da un presupposto molto importante, che quando distribuzione dal basso è nata in Italia si è mossa chiaramente nelle contraddizioni che la cultura indipendente vive in questo paese, quindi cercando di dare delle risposte, delle soluzioni alternative a quello che è la situazione in Italia rispetto a questo. Bisogna essere consapevoli che in altri paesi europei, come per esempio il Belgio, la Francia o la Germania, queste contraddizioni sono altrettanto simili, semplicemente si sviluppano poi nel territorio con delle modalità apparentemente diverse. La sfida è riuscire a capire tutti insieme che le contraddizioni in realtà sono quelle sempre, cioè la difficoltà di potersi dare uno spazio fisico e virtuale per creare opere creative indipendenti senza che ci sia il passaggio attraverso il mainstream o l'industria cinematografica, per esempio, oppure il grosso mainstream dell'editoria, per esempio. E quindi, nel senso, siamo tutti nella stessa condizione di trovare delle nuove formule. La sfida adesso è non solo riuscire a parlare tra di noi nonostante la differenza linguistica, ma anche capire il contesto nazionale e locale per contesto nazionale che le soluzioni possono essere simili ma non identiche. Per esempio, giusto per farvi capire cosa intendo, noi chiacchierando un po' con alcuni autori indipendenti in Belgio, il loro problema paradossalmente ci raccontavano non è tanto la produzione in quanto tale, nel senso che non c'è bisogno per forza di attivare un crowdfunding, perché ci sono altre modalità di sostenibilità più, diciamo, classiche che sono ancora in vita, ma tutto quello che riguarda la distribuzione on demand molto spesso non si sono nemmeno posti il problema di come poterla sviluppare, proprio perché è basata su un ragionamento completamente diverso. Questi appunti secondo noi sono uno spunto di partenza molto importante per provare a anzitutto confrontarsi tra esperienze diverse, sempre nel mondo del panorama indipendente, e capire ognuno a seconda del contesto in cui vive che soluzioni e che risposte si sta dando in questi anni. Mm-hmm. E già solo questo è un passo molto importante secondo noi. Mm-hmm. Paco, come sai, siamo a disposizione per quanto riguarda Visionari e i progetti della vostra distribuzione dal basso, per cui ci sentiamo per le prossime novità. Volentierissimo. Noi chiaramente in questi ultimi tre mesi, come penso insomma avete notato, avevamo fermato le acquisizioni di nuove opere proprio perché eravamo completamente assorbiti e concentrati su tutta la ristrutturazione e l'internazionalizzazione. Già dalla prossima settimana, per esempio, torneremo finalmente anche a proporre nuove opere. Abbiamo già diversi progetti sia editoriali che cinematografici che sono pronti per essere lanciati sul portale. Benissimo, allora a presto. Grazie a voi. Un abbraccio. Ciao. A presto. Ciao. Andrea Paco Mariani sulla piattaforma europea OpenDDB. Con Alessandro Rossetti, direttore della 13ª edizione di Percorsi di Cinema alla Casa del Cinema e la Biblioteca Nazionale Centrale qui a Roma, da ieri fino al 6 dicembre con 4 incontri, il primo c'è già stato, 3 i prossimi in programma. Giusto Alessandro, ben ritrovato. Beh, grazie a te Federico, ben ritrovato anche a te e buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, allora, il programma è iniziato ieri, abbiamo fatto il primo film di Percorsi di Cinema che è Orecchie, un film che il regista Alessandro Radio ha realizzato ed è stato selezionato a Venezia nella sezione college, mi sembra. Adesso non vorrei ricordare. Sì, sì, sembra, mi ricordo anch'io, perché poi lo abbiamo ospitato anche qui il regista per parlare del suo film a Venezia. Sì, e ieri ci ha raccontato tutto l'iter che ha portato alla realizzazione del film, il fatto che è stato selezionato e ha fatto parte di questa selezione che vedeva la partecipazione dei tutor per realizzare la sceneggiatura con un budget limitato. È riuscito a realizzare questo film che è una commedia molto divertente. L'incontro è stato condotto da Francesco Aniani Martinotti, che tra l'altro era stato scelto per condurre l'incontro perché la produttrice aveva avuto nel passato, aveva iniziato la sua carriera di produttrice proprio con un film prodotto da Martinotti e realizzato Fulvio Ottaviano, quindi c'era questa continuità lavorativa e questa tradizione che tra l'altro è stata anche ripresa, perché un film realizzato anche sempre come produttore e sceneggiatore da Martinotti e da Fulvio Ottaviano assomigliava un po' come stile narrativo e come stile realizzativo a questa seconda opera di Armadio, che era Cresceranno i carciofi a Mimongo, e ieri è stato in qualche modo ricordato. Poi dunque il programma di Percorsi Cinema continuerà il 16 novembre alle ore 16 sempre alla Casa del Cinema con La ragazza del mondo, che è un film che è uscito nelle sale proprio ieri. Marco Danieli è il regista e questo film è stato premiato, ha ottenuto il premio Lizzani, che è un premio della Mostra di Venezia, un premio collaterale. Il premio è un premio rivolto all'esercente più coraggioso. L'altro anno è stato premiato il gestore della sala San Cassani della Sala Mexico di Milano, e quest'anno è stato premiato sino a Curso Caracappa, che è un gestore molto coraggioso di Sciacca, che è un gestore che del cinema Campidoglio, che è promotore dello Sciacca Film Festival, è un gestore che si dà molto da fare per promuovere un certo tipo di cinema che le sta molto a cuore. Sì. La ragazza del mondo andrà mercoledì prossimo alle 16, l'incontro parteciperà Marco Agnelli, appunto il regista. Sino Caracappa ci ha garantito che verrà a Roma per partecipare all'incontro, e parteciperà anche Flaminia Lizzani, anche per dare continuità a questa cosa del premio Lizzani che si dà a Venezia. Mm-hmm. Anche questo incontro sarà condotto dal presidente dell'ANAC, Francesco Ranieri Martinotti. Mm-hmm. Senti Alessandro, allora, allargando un po' il discorso, visto che siamo anche alla 13ª edizione, ci racconti un po' come è nata e quali sono le finalità La rassegna è nata proprio con l'idea di trasmettere il patrimonio artistico e culturale dei grandi registi, ma anche di includere in questa rassegna dei registi nuovi esordienti. L'idea era appunto quello di permettere al pubblico di partecipare a questo incontro di registi, cosa che si fa da tanto tempo e lo fanno in tante rassegne. Però l'intento era quello di registrare questi incontri, creare dei film che potessero poi andare a costituire una piccola library molto specializzata. Sono delle monografie su dei film e si affronta tutte le tematiche relative alla realizzazione del film dall'inizio, cioè dal concepimento, dall'idea, fino a quando il film viene realizzato, quindi con tutti i problemi relativi alla sua realizzazione e alla distribuzione nel momento in cui finisce la realizzazione del film e incomincia il calvario per gran parte di queste pellicole, perché noi selezioniamo in particolare delle pellicole che sono relative al cinema d'autore indipendente. Ora abbiamo potuto constatare che nel corso di questi 13 anni hanno partecipato a percorsi di cinema i grandi maestri, Ettore Scola, Bertolucci, Tornatore, Rosi, Montaldo, insomma tutta la vecchia guardia, la Cavani, eccetera, e ci hanno raccontato appunto della loro cinematografia, ma anche loro, nonostante tutto siano degli autori molto famosi, hanno affrontato delle grandi difficoltà per alcune delle loro opere. Sì. La Cavani ci ha raccontato per esempio di tutte le difficoltà che ha avuto per realizzare Portiere di notte, che era un film di nicchia, un film che voleva essere un film piccolo d'autore e poi invece si è trovato ad avere un successo clamoroso, cosa che è successo anche ad altri, come ad esempio tutte le vicissitudini che ha affrontato Tornatore per realizzare il nuovo cinema Paradiso, e che poi ha avuto il successo meritatissimo dei riconoscimenti a Cannes, il premio Oscar. Però prima di arrivare ad avere questi premi ne ha affrontate di cose di crude, e lui ha ripercorso appunto in questo appuntamento, che poi è possibile vedere sul sito dell'ANAC nella registrazione, tutte le fasi e anche la fortuna che ha avuto in alcuni frangenti per poter poi emergere. Ci accenni qualcosa anche sugli ultimi due appuntamenti alla Biblioteca Centrale Nazionale? Sì, allora quest'anno per la prima volta, ecco, l'edizione di Percorsi Cinema di quest'anno cambia un pochino veste, e oltre alle due appuntamenti della Casa del Cinema facciamo due appuntamenti alla Biblioteca Centrale di Roma. È la prima volta che questo accade e speriamo che sia l'inizio di una collaborazione proficua, perché con loro facciamo delle proiezioni rivolte alle scuole, e quindi parteciperanno a queste mattine le scuole di Roma con centinaia di studenti, perché la sala è molto grande, sono 350 posti, e lì facciamo due film che sono stati selezionati quest'anno da noi per un'iniziativa analoga, ma che con diciamo delle finalità diverse, è un'iniziativa che si chiamava Il cinema delle biblioteche, che è stata sostenuta dalla Regione Lazio e che ha avuto un grande successo perché ha visto questo tipo di pellicole entrare per la prima volta nelle biblioteche del circuito laziale con un'organizzazione e una diffusione coordinata in tutto il Lazio. Erano 20 biblioteche, un'iniziativa che ha avuto molto successo. I film sono Io sto con la sposa, martedì 29 novembre, sì. Parteciperà il regista, uno dei registi, Antonio Augugliaro, e parteciperà anche una giornalista che ha partecipato alla realizzazione del film, si chiama Rachele Masci, e l'incontro sarà condotto da Daniele Biaso, che è uno sceneggiatore. E il secondo appuntamento è martedì 6 dicembre alle ore 10. Il film è Ben-Hur, un gladiatore in affitto di Massimo Andrei, che è un'opera teatrale dalla quale hanno tratto questo film, una commedia molto divertente, e parteciperà all'incontro Massimo Andrei, che è il regista, e l'incontro con i ragazzi sarà condotto da Pierpaolo Andriani, uno sceneggiatore. Benissimo. Allora, un abbraccio, ricordiamo gli appuntamenti mancanti, il prossimo è il 17 novembre alla Casa del Cinema qui a Roma, e gli ultimi due alla gli ultimi due alla Biblioteca Nazionale Centrale, 13ª edizione di Percorsi di Cinema. Alessandro, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, un abbraccio a te. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci. Alessandro Rossetti, che è il direttore di questa 13ª edizione, e con lui chiudiamo l'appuntamento di questa settimana con Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Ci sentiamo per il giovedì prossimo, 17 novembre. Ci ascoltate sugli 87.9 modulazione di frequenza e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. La scaletta e le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.